Capitolo 13. Non vi era granché di raccomandabile nell'Honorable John Yates. All'infuori delle abitudini eleganti, della larghezza nello spendere, del suo essere il secondogenito di un lord e della fortuna di godere di una relativa indipendenza finanziaria, e probabilmente Sir Thomas avrebbe giudicato la sua inclusione nel gruppo dei giovani Mansfield tutt'altro che desiderabile. Mr. Bertram l'aveva incontrato a Weymouth, dove avevano trascorso 10 giorni nella stessa cerchia, e l'amicizia, se la loro si poteva chiamare amicizia, era stata approfondita e saldata dall'invito rivolto a Mr. Yates di fermarsi a Mansfield quando fosse passato da quelle parti e dalla sua promessa di una visita, ed era comparso prima di quanto Tom si aspettasse, in conseguenza dell'improvvisa dispersione di un'altra numerosa compagnia, radunatasi per darsi bel tempo in casa di un altro amico, per raggiungere il quale Mr. Yates era partito da Weymouth. L'ospite giunse a Mansfield spinto dalla delusione, con la testa piena di tutto quanto attiene al teatro e alle rappresentazioni teatrali, poiché quelli a cui si era unito erano un gruppo di attori dilettanti, e il lavoro, nel quale gli avevano dato una parte, stava per andare in scena di lì a 2 giorni, quando la morte improvvisa di una parente prossima della famiglia che lo ospitava aveva mandato a monte ogni cosa e disperso gli attori. Essere giunto così vicino a gustare la felicità di vedersi citato in un lungo paragrafo, scritto in lode dell'attività teatrale che si svolgeva nella tenuta di Ecclesford, residenza di Lord Ravenshaw, in Cornovaglia, il che naturalmente avrebbe immortalato tutta la compagnia almeno per 12 mesi, e dopo essere quasi giunti al traguardo, veder naufragare tutto quanto era una disgrazia acutamente sofferta da Mr. Yates, il quale non sapeva parlare d'altro. Exford e il suo teatro, col suo perfetto allestimento scenico, con i suoi costumi, le sue prove, i suoi scherzi, costituivano per lui un'inesauribile fonte di conversazione e il magnificare il passato il suo solo conforto. Fortunatamente per lui l'amore del teatro è così generalizzato e la smania di recitare così forte nella gioventù che le sue chiacchiere non riuscivano ad attenuare l'interesse degli ascoltatori. Dall'assegnazione delle varie parti fino all'infausto epilogo, tutta la faccenda era così appassionante, così affascinante, che pochi tra loro avrebbero rifiutato di essere parte in causa, o avrebbero esitato a mettere alla prova le personali capacità istrioniche. Il dramma prescelto era Lovers Vows, i voti degli amanti, e in esso Mr. Yates avrebbe dovuto fare la parte del conte Castle. Una particina, disse, per nulla di mio gusto, e certo non ne accetterei una simile una seconda volta, ma ero deciso a non creare difficoltà. Lord Ravenshaw e il Duca si erano assicurate le due parti più interessanti prima del mio arrivo ad Ecclesford, e benché Lord Ravenshaw offrisse di cedermi la sua, come ben capite, mi fu impossibile di accettare. Mi spiaceva per lui perché si era fatto grandi illusioni sulle sue capacità, mentre non era nemmeno all'altezza di impersonare il barone, un ometto dalla voce debole, sempre rauca, dopo i primi 10 minuti. Avrebbe danneggiato lo spettacolo materialmente, ma io ero decisa a non creare difficoltà. Sir Henry, da parte sua, pensava che il duca non fosse all'altezza del personaggio di Frederick, ma questo solo perché voleva la parte per sé, mentre invece questa fra i due era in mani migliori là dove si trovava. Mi sorprese scoprire che Sir Harry è così legnoso. Fortunatamente il pathos del lavoro non dipendeva da lui. La nostra Agatha era inimitabile e il duca era giudicato grandissimo da molti, e nell'insieme lo spettacolo sarebbe certamente riuscito in modo magnifico. Davvero è stato un duro caso e penso che lei sia molto da compatire. Furono i gentili commenti dei comprensivi ascoltatori. Oh, non è il caso di drammatizzare, ma certo la povera vecchia signora non poteva scegliere un momento peggiore per morire, ed è impossibile non rammaricarsi che la notizia non sia stata tenuta nascosta per i 3 giorni che ancora ci occorrevano. Sì, perché occorrevano appena 3 giorni e, dopo tutto, si è trattato solo di una nonna e la cosa è avvenuta a 200 miglia di distanza. Penso che non ci sarebbe stato un gran male nel farlo, e la soluzione venne suggerita, lo so, ma Lord Ravenshaw, che ritengo sia uno degli uomini più corretti d'Inghilterra, non ne volle sentir parlare. Una farsa invece di una commedia, si intromise Mr. Bertram. Andata a monte, Lover's Vow, Lord e Lady Ravenshaw partono per recitare, loro due, My Grandmother. Beh, il recupero dell'usufrutto vedovile potrà essergli di conforto e forse, detto fra amici, incominciava a temere per il suo prestigio e per i suoi polmoni nella parte del barone. E così non gli è dispiaciuto tirarsi indietro. Per compensarti, Yates, penso che potremmo organizzare una recita qui a Mansfield e chiederti di essere il nostro regista. Pur trattandosi di un'idea estemporanea, la proposta non fu lasciata cadere. Ormai l'interesse per la recita era stato destato e nessuno ne era più entusiasta di Tom, che, oltre ad essere per il momento il padrone di casa e a disporre di tutto il tempo libero necessario per mettere in atto qualsiasi ghiribizzo, era dotato di una vivacità di temperamento e di una vis comica che lo rendevano adattissimo a vestire i panni dell'attore. L'idea fu ripetutamente ripresa. Oh, se avessimo qui il teatrino di Ecclesford e i suoi scenari per tentare noi qualcosa. Le signorine Bertram facevano eco a questo desiderio ed Henry Crawford, che nonostante tutta la sua esperienza in fatto di divertimento non si era ancora cimentato nell'arte scenica, era tutto eccitato dalla novità della cosa. Credo proprio, disse, che al momento potrei essere tanto pazzo da interpretare qualsiasi personaggio, da Shylock o Riccardo III, giù giù fino all'eroe canterino di una farsa, in giubba scarlatta e cappello sulle 23. Mi sento in vena di essere chiunque e fare qualunque cosa, declamare, scatenarmi, sospirare e fare capriole in qualsiasi tragedia o commedia scritta in lingua inglese. Mettiamo su qualcosa, anche solamente la metà di un lavoro, un atto, una scena. Che cosa ce lo impedisce? Non certo la mancanza di persone adatte, e qui volse lo sguardo alle signorine Bertram. E quanto al teatro, che vuol dire un teatro? Noi desideriamo solo divertirci. Una stanza qualsiasi in questa casa farebbe allo scopo. Dobbiamo avere un sipario, disse Tom Bertram. Alcuni metri di panno verde pesante potrebbero bastare. Oh, basterebbero certamente, esclamò Mr. Yates, tirando su appena una o due quinte, aprendo alcune porte sullo sfondo e disponendo di due o tre scenari da far scendere dal soffitto. Non occorrerebbe altro se vogliamo mantenerci su un piano modesto. Per un semplice divertimento fra noi non ci occorre altro. Credo che dovremmo accontentarci di meno, disse Maria. Non ci sarebbe tempo e potrebbero nascere altre difficoltà. Meglio piuttosto adottare il punto di vista di Mr. Crawford e concentrare il nostro interesse sulla recitazione, non sulla cornice teatrale. Molti dei nostri migliori testi sono indipendenti dallo scenario. Ma che, intervenne Edmund, che incominciava a provare un certo allarme mentre ascoltava. Non facciamo le cose a metà. Se dobbiamo recitare, facciamolo in un teatro completamente attrezzato, con platea, gallerie, palchi, e mettiamo in scena dalla prima all'ultima parola un lavoro completo. Purché si tratti di un lavoro tedesco, quale non ha importanza, ma seguito dalla sua brava, scherzosa farsa e da un balletto con accompagnamento di cornamuse e canti durante gli intervalli. Se non supereremo Ecclesford, non combineremo niente. Su, Edmund, non fare l'antipatico, disse Giulia. Nessuno è amante del teatro più di te e più di te si è sobbarcato a veri disagi per seguire uno spettacolo. È vero, ma per vedere recitare sul serio, però non farei la fatica di passare da questa stanza in quella attigua per assistere ai maldestri tentativi di chi non è nato per quella professione. Un gruppo di gentiluomini e di gentildonne, naturalmente impacciati da tutti gli svantaggi della cultura e del decoro. Dopo una breve pausa, tuttavia, l'argomento fu ripreso e discusso a fondo con crescente calore, giacché le inclinazioni di ciascuno erano via via rafforzate dalla discussione e dalla presa di coscienza delle inclinazioni altrui. E benché nulla fosse stabilito, in definitiva, all'infuori del fatto che Tom Bertram avrebbe preferito una commedia, mentre le sue sorelle de Harry Crawford propendevano per una tragedia, e inoltre che doveva essere facilissimo trovare un lavoro in grado di accontentarli tutti, la risoluzione di mettere in scena un qualsiasi spettacolo si rivelò così salda da mettere Edmund completamente in allarme. Era deciso, se solo gli fosse stato possibile, a impedire la cosa, anche se sua madre, che a tavola aveva anch'essa udito la discussione, non aveva espresso la benché minima disapprovazione. Quella stessa sera gli offrì l'occasione di misurare le sue forze. Tom, lasciati nella sala da biliardo Maria, Giulia, Mr. Crawford e Mr. Yates, Tornò in salotto dove Edmund se ne stava pensoso davanti al caminetto, mentre Lady Bertram, lì vicino, sedeva sul sofà con Fanny che a suo fianco era intenta a sistemarle il lavoro e subito prese a dire: «Un tavolo da biliardo così orribile e dozzinale come il nostro, credo che non si incontri da nessun'altra parte sulla faccia della terra. Non lo sopporto più e penso di poter affermare che niente mi indurrà ad avvicinarmici un'altra volta. Però mi sono reso conto proprio ora di un particolare interessante. La sala è esattamente quel che ci vuole per mettere su un teatro in casa. Ha la forma e la lunghezza adatte, e le porte sul fondo possono essere messe in comunicazione una con l'altra in 5 minuti, semplicemente spostando la libreria nello studio di mio padre. È proprio tale quale l'avremmo desiderata se ne avessimo appositamente disegnato la pianta. E lo studio di mio padre, che è in comunicazione col biliardo, fungerà ottimamente da spogliatoio. Sembra che sia lì proprio per questo. Non penserai seriamente, Tom, di organizzare uno spettacolo teatrale? Disse Edmund a mezza voce al fratello che si avvicinava al caminetto. Come no, come no? Non ho mai pensato più seriamente a qualcosa in vita mia. Cosa ci trovi da ridire? Beh, penso che farlo sarebbe un grave errore. In linea di massima, qualsiasi rappresentazione dilettantesca si presta a obiezioni, ma nelle nostre attuali circostanze penso che sarebbe avventato, e peggio che avventato, tentare una cosa del genere. Sarebbe indizio di una grave mancanza di considerazione verso nostro padre, dato che è assente e fino a un certo punto esposto a costante pericolo. Non solo, ma sarebbe imprudente nei confronti di Maria, la cui situazione è, se consideri bene la cosa, molto delicata, estremamente delicata. Ah, prendi tutto così sul tragico, come se pensassimo di recitare 3 volte alla settimana, durante l'assenza di nostro padre, invitando tutta la contrada ad assistere. Non pensiamo a niente del genere, progettiamo un modesto divertimento fra noi, semplicemente per animare la giornata ed esercitare le nostre facoltà in qualcosa di nuovo. Non vogliamo né pubblico né pubblicità. Quanto poi al lavoro da mettere in scena, si può far credito al nostro buon senso, direi. Sceglieremo un testo assolutamente ineccepibile e non vedo alcun male o qualsiasi pericolo per qualcuno di noi se converseremo nell'elegante lingua letteraria di un rispettabile scrittore invece di chiacchierare con parole nostre. Non ho né timori né scrupoli in proposito, e l'assenza di nostro padre così lungi dal costituire un'obiezione che io la considero piuttosto un incentivo, perché questo dell'attesa del suo ritorno non può non essere un periodo pieno di ansia per mia madre, e se possiamo trovare il mezzo di distrarla e di tenerla sul morale durante le prossime settimane, penso che il nostro tempo sarà speso nel migliore dei modi, e sono certo che la penserebbe così anche lui. Mentre venivano pronunciate queste ultime parole, tutti e due volsero gli occhi verso la madre. Lady Bertram, sprofondata in un angolo del sofà, immagine della salute, della ricchezza, della distensione e della tranquillità di spirito, stava appunto appisolandosi pian piano, mentre Fanny si dava da fare per eliminare le poche difficoltà del suo ricamo. Edmund sorrise, scuotendo il capo. «Per Giove!» Quest'anno l'ho azzeccata davvero, esclamò Tom, ridendo e lasciandosi cadere in una poltrona. Mia cara madre, e la sua ansia, ho scelto male l'argomento. Cosa c'è? Chiese sua signoria con la voce impastata di chi è semi addormentato. Non stavo dormendo. Oh, per carità, no, signora, nessuno la sospetta di tanto. Tuttavia, Edmund, continuò tornando sull'argomento che stavano discutendo e riprendendo la posizione e la voce di poco prima, appena Lady Bertram incominciò a pisolare nuovamente, insisto sul mio punto di vista, non ci sarebbe niente di male. Non sono d'accordo con te, sono convinto che mio padre disapproverebbe totalmente la cosa. E io sono convinto del contrario. Nessuno più di mio padre si compiace nel vedere il talento dei giovani messo in atto e incoraggiato, e penso che abbia sempre avuto un gusto spiccato per tutto quanto si riferisce alle rappresentazioni teatrali, alla declamazione, alla recitazione. Sai anche tu come ci hai incoraggiati quando eravamo ragazzi? Quante volte in questa stessa stanza si è divertito a sentirci declamare il lamento sul cadavere di Giulio Cesare o essere o non essere? E anche il mio nome era Norval ogni sera della mia vita durante le vacanze di Natale. Ma era qualcosa di completamente diverso, disse Edmund. Tu stesso non puoi non sentirne la diversità. Mio padre, quando frequentavamo la scuola, desiderava accertarsi se sapevamo esprimerci bene o no, ma non desidererebbe che le sue figliole, ora che sono cresciute, compaiano in scena in non so che lavoro teatrale. Ha un rigido senso del decoro. So tutto questo, disse Tom infastidito. Conosco nostro padre, tanto bene quanto lo conosci tu, e avrò cura che le sue figliole non facciano nulla che lui potrebbe disapprovare. Bada ai fatti tuoi, Edmund, e io mi occuperò del resto della famiglia. Se sei deciso a mettere in scena uno spettacolo, replicò il perseverante Edmund, spero almeno che lo farai in modo molto modesto e tranquillo. E penso che non si debba tentare di montare un teatro, equivarrebbe a prendersi una grande libertà con la casa di mio padre durante la sua assenza, e questo non può trovare giustificazione. Risponderò io personalmente per ogni cosa, disse Tom con tono deciso. La sua casa non verrà danneggiata. Sono interessato almeno quanto lo sei tu alla salvaguardia di questa casa. Quanto poi ai cambiamenti cui ho accennato poco fa, come spostare una libreria o aprire una porta chiusa a chiave, o perfino fare uso della sala da biliardo per un'intera settimana senza giocarvi a biliardo, potresti supporre con altrettanta logica che egli solleverebbe obiezioni per il fatto che ora ci intratteniamo più a lungo in questa stanza e meno a lungo nella saletta della prima colazione di quanto fosse consuetudine prima della sua partenza. O per il fatto che il pianoforte delle mie sorelle è stato spostato da un'estremità all'altra della sala? Cose senza senso comune. Ammesso che l'innovazione non sia riprovevole in quanto tale, sarà sempre criticabile dal punto di vista della spesa. Ma sì, la spesa richiesta sarà davvero ingente, forse salirà addirittura a 20 sterline. Certo, dovremmo avere qualcosa sul tipo di una sala da spettacolo, ma sarà un impianto semplicissimo, un sipario verde e pochi lavori di carpenteria, ecco tutto. E siccome il lavoro di carpenteria può essere fatto qui in casa, personalmente da Christopher Jackson, sarebbe davvero assurdo parlare della spesa. E finché Christopher Jackson avrà qualcosa da fare per Sir Thomas, andrà tutto bene. Non ti immaginare che in questa casa nessuno all'infuori di te sappia vedere e giudicare. Se non ti fa piacere, non prendere parte alla recita, ma non pretendere di dettar legge a tutti gli altri. No, quanto a recitare io stesso, disse Edmund, io escludo decisamente. Tom uscì dalla stanza, mentre il fratello diceva queste ultime parole, ed Edmund, assorto in meditabondo malumore, sedette vicino al caminetto e si mise ad attizzare il fuoco. Fanny, che aveva udito ogni cosa e assentito fra sé al punto di vista di Edmund, ora, nell'ansia di suggerirgli una qualche idea confortante, si azzardò a dire: forse non riusciranno a trovare un lavoro che faccia a caso loro. I gusti di tuo fratello e delle tue sorelle sembrano molto diversi fra loro. Non ci spero, Fanny. Se si ostinano nel progetto, si aggiusteranno per scovare qualcosa. Parlerò con le mie sorelle e tenterò di dissuaderle. È tutto quanto posso fare. Penso che la zia Norris sarà dalla tua parte. Lo penso anch'io, ma non ha sufficiente influenza su Tom e sulle mie sorelle. E se non riuscirò a convincerle io, lascerò che le cose seguano il loro corso, rinunciando a ricorrere all'aiuto della zia. I dissensi in famiglia sono il peggiore dei mali ed è meglio che noi si faccia qualsiasi cosa piuttosto che accapigliarci. Le sorelle, con le quali trovò l'opportunità di parlare la mattina seguente, accolsero i suoi consigli con la stessa impazienza di Tom. Come lui si irrigidirono contro ogni rimostranza e si mostrarono decise a difendere lo svago progettato. La loro madre non trovava nulla da obiettare ed esse non avevano il benché minimo timore di dover suscitare la disapprovazione del padre. Non poteva esservi nulla di riprovevole nel fare quello che già era stato fatto in tante rispettabili famiglie e da un così grande numero di donne che godevano della più alta considerazione. E solo una scrupolosità portata all'eccesso poteva trovare qualcosa da ridire in un progetto quale era il loro, che includeva solamente fratelli e sorelle e amici intimi e di cui nessuno all'infuori di loro avrebbe mai udito parlare. Effettivamente, ammetteva implicitamente Giulia, la situazione di Maria poteva richiedere particolare prudenza e delicatezza, ma quelle considerazioni non toccavano a lei. Lei era libera. E Maria, da parte sua, riteneva evidentemente che il suo fidanzamento la mettesse al di sopra di ogni costrizione, dandole minor motivo di consultare sia il padre che la madre. Edmund sentiva di avere poco da sperare, ma stava ancora insistendo sul suo punto di vista. Quando, giungendo dalla canonica, Harry Crawford entrò nella stanza esclamando: «Non mancheranno le braccia al nostro teatro, Miss Bertram, non mancheranno gli aiutanti di buona volontà. Mia sorella vi manda i suoi saluti e spera di essere ammessa fra i membri della compagnia. Lieta di far la parte di una qualsiasi vecchia chaperon e sottomessa confidente, che nessun'altra reclami per sé». Maria gettò a Edmund un'occhiata che significava: «E adesso? Cos'hai da dire? Possiamo essere dalla parte del torto se Mary Crawford la pensa come noi?» E Edmund, ridotto a silenzio, si trovò costretto ad ammettere fra sé che l'attrattiva del recitare su un palcoscenico era tale da affascinare perfino una mente geniale. E con l'ingegnosità propria dell'amore, a soffermarsi sul compiacente, cortese tenore del messaggio che su qualsiasi altro aspetto della cosa. Il progetto fu portato avanti. La posizione di Edmund risultò vana. E quanto a Mrs. Norris, egli dovette constatare di essersi sbagliato, supponendo che si sarebbe schierata dalla sua parte. Fece presente alcune difficoltà che furono spazzate via in 5 minuti da Tom e Maria, che avevano grande influenza su di lei. E siccome l'esecuzione del progetto doveva comportare spese poco ingenti agli altri e nessunissima a lei, e le faceva pregustare tutte le gioie derivanti dal trovarsi in mezzo al trambusto, dal sovrintendere agli affrettati preparativi e dal senso di importanza che gliene sarebbe derivato, poiché inoltre si convinse con grande piacere d'essere costretta a lasciare la propria casa, dove era vissuta tutto un mese a proprie spese, e di trasferirsi in quella della sorella, dove avrebbe speso attivamente ogni sua ora, si mostrò, in ultima analisi, entusiasta del progetto.